Lei ci fa perdere tempo. Ancora una volta non ha fatto in tempo. Lei non sa gestire il suo tempo. Ho l'impressione che lei perda tempo. Quindi il problema è il tempo. Il tempo e i molti modi che abbiamo per misurarlo. Secondi, minuti, ore. Sono unità di misura incerte, ma loro conoscono solo quelle. Mi scusi, ma come faccio a perdere qualcosa che non mi appartiene più? Una volta lo studiavo, il tempo. Il tempo è la relazione con la luce che si piega. Allora tutto era diverso, l'università, il profumo del futuro. Era bello studiare il tempo e trovare semplice l'incomprensibile. L'incomprensibile per me era ovvio, riuscivo a capirlo. Era bello anche quando ho capito che quel futuro al quale volevo così tanto bene in realtà non esisteva, perché insieme al presente e al passato era soltanto una cocciuta illusione. Poi ho smesso di studiare il tempo e ho vinto un concorso. Ho vinto un concorso e ho perso il tempo. E ora anche per me è soltanto questione di secondi, minuti, ore, anzi, orario di lavoro. Però c'è una possibilità, c'è sempre una possibilità, anche quando non la vedi. Quando è che tutto è cominciato? De Bortoli. De Bortoli quella mattina aveva le scarpe rotte, vecchie, aperte davanti, che come si fa andare in giro con quelle scarpe? E allora quando qualcuno gli fa: De Bortoli, hai le scarpe che hanno fame? Lui che fa? Niente, non dice niente e si siede su quella panchetta che sta lì in corridoio, che mi sono sempre chiesto che ci sta a fare lì una panchetta, quella è una zona di passaggio. Ecco che ci stava a fare. Aspettava De Bortoli con le scarpe rotte. 20 anni di panchetta in attesa. Dovrebbero intitolargliela quella panchetta, come si fa con le panchine nei parchi o i banchi delle chiese. Anzi, dovrebbe diventare una sorta di tradizione, una liquidazione morale. La panchina De Bortoli, la macchinetta del caffè a Frascolla, il lampadario ad Aurumunna. Beh, no, magari il lampadario ad Aurumunna no, visto quello che ci ha fatto con il lampadario. Comunque, De Bortoli aveva 58 anni, era prossimo alla pensione. Come sperava che l'avrebbero preso sul serio? Però il biglietto che ha lasciato funzionava, sì. Mi avete fatto sentire inutile. Alla mia età non si può ricominciare. Alla mia età si può solo finire. Non male, De Bortoli, non male. Però 58 anni. E poi che significa inutile? È rimasto seduto su quella panchetta per tutto il giorno e poi si è buttato di sotto, seduto per ore. Quando non sono ancora fantasmi, ma già non sono più tra noi. Erano le 5 del pomeriggio, con tutta la gente che usciva dall'ufficio, ma dico io, vecchio scemo, con il rischio di far male a qualcuno. Nessuno che abbia notato come buttarsi giù a quell'ora fosse pericoloso per gli altri, intendo. L'articolo più lungo era per De Bortoli, dipendente della Transcom, giusto una manciata di parole. Me l'ha fatto vedere Luisa. Lei De Bortoli lo conosceva meglio di me, erano stati insieme alla divisione commerciale prima che lei fosse trasferita. Guarda, questo è l'articolo più lungo, questo è quello più corto. Qui hanno sbagliato il nome, vedi, hanno scritto Di Bortoli con la I. Li aveva ritagliati tutti. Quando sono entrato in Transcom, Di Bortoli è stato il primo a presentarsi, il primo a dirmi di darci del tu, il primo a offrirmi un caffè, a dirmi che però sapeva di plastica. Il caffè della macchinetta sa ancora di plastica, è vero. Il primo caffè, il primo collega, il primo giorno di lavoro. Probabilmente l'unica volta in cui De Bortoli è arrivato primo in qualcosa. Beh no, è stato anche il primo a... Però a quel tempo non avevamo capito che sarebbe stato il primo. Comunque De Bortoli ha fatto scuola, bisogna ammetterlo. Il biglietto scritto a mano lasciato sotto la finestra dell'ufficio è diventato un must. Dopo di lui tutti a cercare di scrivere biglietti precisi, ordinati, ben circostanziati, ben pensati. Lundari Stefani, ad esempio, ha scritto un capolavoro. Lei era una tipa molto carina, anche in carriera, era simpatica, viveva da sola, aveva un gatto, un coniglio. Ha scritto questa email al padre 10 minuti prima di buttarsi di sotto. Ciao papà, quando ti ho chiamato questa mattina mi hai detto che non sembravo in forma. Hai ragione. Le mie pulsioni suicide sono tornate. Ho deciso di farlo questa sera. Il mio capo non lo sa, ma sarò la 23esima impiegata a suicidarsi. Porto con me la carta di donatrice d'organi, non si sa mai. A parte questo, non dimenticare di dare da mangiare a Zeb e Frimo. Mi spiace che tu debba ricevere questo genere di messaggi, ma sono più che persa. Ti voglio bene, papà. Stefania. Micidiale, eh? Non si poteva fare di meglio. Addirittura il ti voglio bene, papà, finale, un colpo da maestro. Le mail sul web ha imperversato per 2 o 3 settimane, poi non si è più detto nulla, l'azienda ha espresso il suo cordoglio e alla fine ha liquidato tutto come un drammatico incidente. Non so nemmeno se è riuscita a donare gli organi. Poveretta, ci teneva così tanto. Si era portata la tessera appresso. Luisa invece ha giocato sull'effetto sorpresa. Lei quella mattina ha appoggiato sulla mia scrivania il faldone con tutti gli articoli di giornale. Pensavo l'avesse fatto perché la stavano trasferendo di nuovo. Ero con lei quando le avevano comunicato la cosa e sembrava l'avesse presa bene, tutto era normale, era tranquilla come sempre, ordinata. Ha lasciato il faldone sulla mia scrivania, mi ha salutato e è volata giù dalla finestra della sua camera da letto a mezzanotte. Poveraccia, qua non poteva. Lavora al seminterrato. Lavorava. Luisa. Luisa, è una guerra persa la tua, e non l'hai persa perché sei la più debole, l'hai persa perché hanno convinto tutti gli altri che non esiste nessuna guerra, e intanto ti hanno rubato il tempo. Hanno potuto farlo perché credevi che esistesse, che fosse fatto di secondi, minuti, ore. Se non capisci che il presente non esiste, loro possono portartelo via, e allora devi dargli la vita. Il tempo è un'entità astratta, come l'anima. Loro cercano di renderlo concreto, così possono comprarlo, venderlo. E io non saprò mai a chi, non saprò mai a chi ho venduto gli ultimi anni della mia vita. Ma tanto a che servirebbe? Mica potrei ricomprarmeli, no? Il tempo è l'esca con cui catturano la vita. Penso che potremmo usare le vite umane come unità di misura del potere, il numero di vite di cui si può disporre, il potere di distruggere la vita di decine, centinaia, migliaia di persone che non conosci, che non ti conoscono, ma che sanno chi sei. Dunque, il potere alla sua unità di misura nella vita degli altri, ma d'altro canto la vita si cattura con il tempo e così il cerchio si chiude. I potenti sono coloro che possono entrare dentro di noi e rubare tutto il tempo di cui sono fatte le nostre vite. È per questo genere di ragionamenti che dicono che gli faccio perdere tempo, perché penso durante l'orario di lavoro, è normale che protestino. Lei ci fa perdere tempo. Quale tempo? Quale tempo? Il vostro o il mio che avete comprato? Anche se capisco che dal vostro punto di vista magari non c'è tutta questa differenza, però io non lo faccio apposta, ci ho provato a non pensare, a non ragionare. Ma come si fa? Come si fa a non riflettere? Si vedono delle cose, dei dettagli, cose che sembrano piccole ma che in realtà sono importanti. Quello che dovrebbe far lei, signor Finchi, è essere grato all'azienda che per tanti anni le ha dato lavoro. Ma sì, ma io sono grato, sì. Però scusate, a me sembra che sia successo esattamente il contrario. Sono io che ho dato il mio lavoro all'azienda. L'azienda mi dava dei soldi ed io in cambio le ho dato il mio tempo. Perché che si fanno chiamare datori di lavoro. Ma ci ho fatto caso solo io, per questo genere di cose che sono diventato un pignolo, come dicono loro, perché se si smette di far caso alle parole, poi non si fa più caso a niente, diventa tutto ridicolo, assurdo, privo di senso. Le parole sono importanti, loro non sono datori di lavoro, loro sono prenditori, ecco. Loro il lavoro se lo prendono per mesi, anni, ogni giorno, per ore, se lo prendono e se lo portano via con tutto il tempo. E quando non riesci più a dargliene abbastanza, perché sei troppo pignolo per lavorare senza pensare, ti dicono che gli fai perdere tempo. Ma come? Come? Con tutto il tempo che vi siete presi. Adesso non ne potete perdere un po'. E poi scusate, per essere precisi, se io sto qui a riflettere, non vi faccio perdere tempo, me ne sto soltanto riprendendo una piccola parte. Voi non state perdendo tempo, mi state restituendo il mio. Ma vi rendete conto di quello che vi siete presi in tutti questi anni? Ma lo sapete o no che il tempo è la materia di cui è fatta la vita? Certo che lo sapete. Però voi avete lo schema organizzativo, la pianta organica, il mansionario, la divisione commerciale. Dite che l'azienda deve operare unita, che deve avere un'immagine unica, un'unica identità, e poi come la organizzate? Per divisioni. Perché non state mai attenti alle parole? Perché dite che io sono un pignolo, se ci faccio caso? L'azienda si nutre di lavoro, il lavoro è fatto di tempo. Il tempo è la materia di cui è fatta la vita. Quindi l'azienda si nutre delle nostre vite. Ogni giorno che entriamo qui dentro diventiamo cibo. 8 ore sono un piccolo morso, un assaggio di ognuno di noi. Ci mangiano. Lentamente. E io devo mettere in salvo il tempo che mi resta. Devo salvarlo. C'è sempre una possibilità, anche quando non la vedi. Loro non vogliono che io pensi durante l'orario di lavoro, ma è proprio pensandoci che ho capito quello che devo fare fin nei minimi dettagli. Ho valutato tutte le possibili alternative con una precisione che loro considererebbero pedante. C'è solo un posto dove posso nascondere il mio tempo con la certezza che non lo troveranno mai. Domani sarà tutto come sempre. La casa, i mobili, il letto, tutto come sempre, normale. In un primo momento crederanno che io stia dormendo. Chissà che faccia faranno quando capiranno che sono scappato via, portando con me tutto il mio tempo.